10 luglio del 2019, questa è Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Come ogni mercoledì inizia prove tecniche di trasmissione che andrà avanti sino alle 22.30 circa. Lo farà anche attraverso lo streaming con il quale ci si può collegare andando sul sito www.ondarossa.info. Questa emittente è una radio elettronica, è un indirizzo di posta elettronica, ondarossa@ondarossa.info. Questo spazio ha anche una pagina Facebook che è prove tecniche di trasmissione /disorder, dove domani ovviamente comparirà come al solito la playlist e la registrazione di questa trasmissione, cosa che accadrà puntualmente anche sia su Twitter ma anche sul sito della radio stessa. Ma l'ultima anche la pagina di Radio Onda Rossa, sempre di Facebook. Ricordo anche l'urgenza sempre ovvia della sottoscrizione 61 80 40 01 e un conto corrente postale che si può anche trovare nel nostro sito, che va intestato Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via Revolci 56 00185 Roma. Salutiamo Rodrigo Passannanti from London di Hypercube, Marco qui da Roma, Antonio Zoviet da Firenze alias Omicidio. Iniziamo invece con questo bellissimo ultimo lavoro di Der Blaue Reiter, che ovviamente non smentiscono il loro valore anche in questo ultimo lavoro, United Yet Divided, un album che tratta delle vicende dell'Europa dal punto di vista politico, etico, eccetera, eccetera. Album valido soprattutto dal punto di vista musicale, magari dal punto di vista dei contenuti, per quelli che si possono trovare, c'è qualche attimo di ingenuità. Ma diciamo che la cosa importante è che sia un album estremamente bello, devo dire, quasi livelli, per essere proprio pignoli, quasi livelli di quelli del passato. Intanto un saluto a Raffaele Pezzella, sonologist, che manderemo anche questa sera, Nicola Locci di Stigmate e Exanogal, Mano Fais, lo salutiamo. Non mi ricordo da dove ci sta ascoltando, da quale parte dell'Italia. Lui è Pioggia d'Ambra, che manderemo anche lui questa sera. Allora, dunque, iniziamo con questo album di Der Blaue Reiter. E ci ascoltiamo la terza traccia, che si chiama The Eye Bridge, che tratta della parte isolata della vecchia Germania Ovest post bellica e Cold War, una guerra fredda che è tutto un programma 1947-1991 e World in Fear. brains did not feel fair. A blockade closed up all the sources. What was left was the air. For 11 months, the Western people was cut off from the rest. At Tempelhof, the mother of airports, resources came from the West. Dividing a city, it could not be ruled. The future felt so distant. Life just felt so. Ridicule. Thank you. Due momenti emozionalmente diversi tra di loro, questi due brani dell'ultimo lavoro di Der Blaue Rider, progetto proveniente da Barcellona, in Catalogna. Un ultimo lavoro che si chiama United Yet Divided, che esce per la Teutonica Dark Vinyl Records. Progetto fondato nel 2006 da Satonis Eleanort, valente pianista e tastierista, nonché praticamente compositore di tutte le splendide melodie di Der Blaue Reiter, un progetto che si muove nell'ambito del neoclassicismo, del martial, dell'industrial e anche con accenni, come sta andando sotto la mia voce, di neofolk. Attualmente in sodalizio con Cecilia Biargo, già presente anche negli Arcana, e con l'apporto decisivo di Lady Knot, che al violino, che per molti anni fu in pianta stabile di questo progetto, poi andò via, ma sovente è, diciamo, è ospite esterna di Der Blaue Reiter. Sette lavori bellissimi, i primi tre secondo me anche dei capolavori, il resto ottimi lavori, consigliatissimi a chi non li conosce, chi chiaramente ama questo tipo di suoni. Salutiamo Jean-Claude Berthaud dalla Val d'Aosta. Arriviamo qui in Italia, andiamo da una nostra ascoltatrice, nonché musicista assai assidua ultimamente, anche se questa sera non la vedo e non la sento, lei comunque è Lucia Cagliazza in Alte Lupsi. Lupsi è una valente chitarrista, con una chitarra trattata in varie maniere, con svariati reverberi e soluzioni sonore molto sperimentali e interessanti, che non a caso vede anche l'ausilio del buon Raffaele Pezzella. Questa sera ci ascoltiamo Is It You One e Soul of Survivors. It's a brother. Dunque, un'ottima lupsi nella persona di Lucia Cagliazza, che salutiamo, benvenuta anche per questa sera a lei su queste frequenze su Radio Onda Rossa. Ci siamo ascoltati queste due tracce, Is It You e Soul of Survivors. So che Lucia sta lavorando anche per un nuovo lavoro. In passato abbiamo apprezzato Eve, il suo album di qualche tempo fa. Quell'album, come queste tracce, hanno anche l'aiuto del buon Raffaele Pezzella, e anche grazie al suo cilindro magico io ho conosciuto proprio Lupsi attraverso una delle tante compilation di Raffaele. E devo dire, Lupsi è uno dei progetti più interessanti degli ultimi anni. Queste risonanze armoniche, queste stratificazioni così visionarie, disturbate, insomma materiale adattissimo per prove tecniche di trasmissione. Qui c'è profumo anche di psichedelia Pink Floydiana, mi permetto di dire, in questa chitarra che sta andando sotto la mia voce e che ci ascolteremo la prossima settimana. Intanto mi conferma Lucia, e infatti mi ricordavo bene, un album insieme a Simone Serafini che abbiamo apprezzato anche la scorsa settimana con il suo archetto e il suo contrabbasso. Veniamo a Raffaele Pezzella e il suo ultimo lavoro, Phantoms, anche lui maestro della sperimentazione, a dimostrazione di come l'Italia abbia dei talenti non indifferenti. Un album che esce ovviamente per la Nesplay Sounds, un'etichetta e anche un gruppo Bandcamp e anche Facebook, molto interessante per chi ama questi suoni. Phantom, delle voci catturate nell'ambiente, frattaglie di ricordi, materiale anche se vogliamo di psicologia profonda. Ricordi ed abissi dunque popolano questo Phantoms. Ci ascoltiamo Memorex e Xiaomi Kingdom. piacevolmente spiazzante questo ultimo lavoro di Sonologist di Raffaele Pezzella, si chiama Phantoms. A mio modesto giudizio uno dei migliori lavori di questo musicista napoletano, che ormai ne ha sfornati assai, molti lavori, e questo è uno dei miei preferiti, devo dire. Ormai è qualche annetto che siamo in contatto e in questa piacevole avventura di prove tecniche di trasmissione, con l'apporto decisivo di Raffaele Pezzella, devo dire. E un giorno ci si incontrerà pure dal vivo, spero, magari anche che venga qui a Roma a suonare, vediamo un po' cosa si potrà fare. Queste voci catturate, voci d'ambiente, veramente ben assemblate, un vero e proprio eccitante collage sonoro. Intanto do il benvenuto anche ad Enrico Cerrato, artista dal nome Petrolio, anche di lui aspettiamo nuove mosse. Mi raccomando Enrico, rendici edotti delle tue mosse discografiche. Questa sera, come al solito, abbiamo del materiale italiano che riprenderemo più avanti. Una pausa invece proveniente dalla Spagna, attraverso però un'etichetta tedesca, la Gala Corro. Le scorse settimane abbiamo apprezzato Erz Yüning. Adesso andiamo a conoscere un altro artista di questa etichetta molto molto interessante. Si chiamano Dasein, provengono da Madrid. Hanno al loro attivo due lavori, Death in the Most Certain Possibility del 2017 e questo Mirror Touch, uscito un mesetto fa. L'influenza è sempre quella, House Raffna November Novelet, quindi la Minimal Industrial Wave, coniamo questo termine, un suono caratteristico proprio della Galat Corro. Dunque, Cut Your Tongue, Inertia e 14 Days. Ancora loro, Da Sign, sempre da questo Mirror Touch. E questa è la quarta traccia di questo loro secondo album, si chiama 49 Days, adesso ho letto meglio, 49 Days, Da Sign. La Glacorro è effettivamente abbastanza riconoscibile come tipo di suono, come atmosfere, così tra la cold wave, la dark wave, però con questa trazione industrial minimale e con questo suono così malato che ha caratterizzato tanti progetti di questa etichetta tedesca. Per ultimi appunto questi Da Sign, provenienti da Madrid con Fernando Paino e Cass Visions, probabilmente quest'ultima di origine polacca, già che loro cantano in inglese ma anche in polacco. Mirror Touch, secondo lavoro di un mesetto fa per Da Sign. Torniamo in Italia, eccolo qua, Hypercube di Rodrigo Passananti. Rodrigo ormai da molti anni vive e produce musica a Londra e da pochissimo è uscito questo 4 tracce dal nome Objects of Perseverance. Le audacissime scale ritmiche di Rodrigo, che parzialmente mi ha anche ricordato i migliori Autechre in certi frangenti, probabilmente però in una versione ancora più sperimentale. Eccola qua, Biometric Bender e poi anche Vouchers. Thank you.